sfonda primavera, non senti tu nell'anima il suono di nuova voce lusinghiera? Non senti tu nell'aria il profumo che sfonda primavera? Non senti tu nell'anima il suono di nuova voce lusinghiera? All'aprile è la stagione d'amore. Vieni, o mia gentil, sopra in fiore, è l'aprile, è l'aprile. Oh, tra i framammole avrai sul petto rose cilestrine e le farfalle candide aleggeranno intorno al nero crine. Il pietra tra i framammole avrai sul petto rose cilestrine e le farfalle candide aleggeranno intorno al nero crine. Vieni, o mia gentil, sopra in fiore.